Nel Trattato delle Reliquie, Calvino, non Italo ma quello più serio, Giovanni, riformatore protestante, Calvino dice che a proposito del prepuzio di Gesù Cristo si deve essere fatta confusione. Quel poco che gli fu tagliato al momento della circoncisione, quel poco, lo dice lui, è conservato a Roma in San Giovanni in Laterano, dove riposerebbe fortunosamente o miracolosamente, a seconda dei punti di vista, dopo che venne rubato nel 1527 durante il famoso sacco di Roma da un militare ladro dai gusti perlomeno strani. Come se uno entrasse nei forzieri di Fort Knox e rubasse la biro del direttore, non so, con tutto quel ben di Dio che c'era da rubare, questo militare comunque trafugò quel prezioso prepuzio che poi, in grazia di traversie che vi racconterò un'altra volta, è però potuto tornare al suo posto. Orbene, Calvino, che era uno che sapeva fare 2 più 2, dice che il fatto che anche nell'abbazia di Charroux, nella diocesi di Poitiers, fosse esposto alla pubblica adorazione un altro prepuzio di Gesù Cristo lo inquietava non poco. Oibò, oibò, esclama l'attento e accigliato riformatore, di prepuzi veri ce ne può essere uno solo, e dunque o quello francese o quello italiano è rigorosamente falso, di qui non si scappa. E invece alla faccia di Calvino, di qui si scappa e come? Perché di prepuzi di Gesù notoriamente ce n'erano altri 5. Per lo più in mani francesi, che evidentemente a queste cose ci tengono. Uno era a Coulombes, nella diocesi di Chartres, e serviva, il solo vederlo, come viatico alle partorienti. Un altro era ad Anversa, un altro ancora nella cattedrale del Puy, nel Velay. Il sesto era a Hildesheim, in Sassonia. E il settimo, infine, a Chalon-sur-Marne, nella chiesa di Notre-Dame-en-Vaux. Quest'ultimo prepuzio, tuttavia, fece una brutta fine. Al vescovo Noailly, che reggeva la diocesi di Chalon-sur-Marne nei primi anni del secolo XVIII, la faccenda che Gesù potesse aver dovuto subire 7 circoncisioni più che una pratica religiosa doveva sembrargli la preparazione di un carpaccio, per cui incaricò un chirurgo di esaminare la reliquia allo scopo di attestarne o meno l'eventuale autenticità. Data la pochezza della strumentazione chimica di allora, il chirurgo decise di aprire l'involucro in velluto e di assaggiarne il contenuto. Contrariatissimo, sputò il tutto e dichiarò trattarsi di sabbia. Per cui, vabbè, ne rimarrebbero 6. Le notizie relative le ritrovate o nel dizionario delle reliquie delle immagini miracolose di Jacques-Albin Simon Collin de Plancy, e oppure nel Traité des Superstitions del Thiers, che è stato pubblicato a Parigi nel 1697. Allora, fermo restando il palese errore di conteggio, tuttavia, al vecchio Calvino, dalla denuncia della semplice duplicazione dei prepuzi veniva almeno la ferma convinzione di aver posto fine ad un insano mercato. E anche qui si sbagliava. Nel 1994, a quanto apprendo giusto da un numero di una rivista testé citata dall'Oliva, cioè da un numero di oggi offerto in pasto all'attesa dei pazienti di uno studio medico, nel 1994 vale forse di meno quello di Gesù e vale forse di più quello del nipotino di Gina Lollobrigida, ma il mercato di prepuzzi continua. La buona cara vecchia Gina Lollobrigida, non solo all'insegna che del maiale non si butta via mai niente, ma neppure dei maialini, visto che con gli anni e nonostante le attuali tecniche di surgelamento la propria carne trova meno acquirenti, ha pensato bene di vendersi quella del proprio nipotino. Così noi tutti viviamo, allora lo sappiamo, viviamo in un paese ed in un'epoca in cui qualcuno compra in esclusiva le fotografie del pene mutilato dell'ignaro nipotino di una nonna che dal 1953 in poi ha provveduto agli italiani il pane, l'amore e la fantasia che loro mancavano. In cerca di una rassicurante asetticità, a scanso di drammatici equivoci che con i tempi che corrono e con chi partecipa del governo non sarebbero neppur tanto improbabili, la giustificazione ideologica adotta è stata incentrata sulle sempre efficaci e peraltro misteriosissime ragioni igieniche. Ragioni igieniche a giustificazione dell'operazione chirurgica, e non ben inteso a giustificazione dell'operazione commerciale. Il piccolo mutilato, rispetto a colui che l'ha preceduto, avrà perlomeno un vantaggio. A lui e dal suo prepuzio non verranno richiesti miracoli e se le condizioni economiche della sua famiglia manterranno un minimo di floridezza, è probabile che glielo taglino una volta sola. Quando si renderà conto del suo stato e si porrà almeno una domanda sul perché, anche nel caso trovasse la risposta giusta, non quella igienica ma quella ideologica, quella che gli spiega come lui da bebè innocente sia potuto diventare una merce, presumibilmente sarà sempre troppo tardi per strangolare la nonna con le proprie mani. Bigger than you, and you are not me.